24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Ho impiegato un mese per capire la storia del passero, del tacchino, quella di Bersani. Cioè. L'ha capita? Farò un master in bersanese. Cari italiani, non fatevi abbindolare da questi toni e questo accostamento che sembra molto gentile. Matteo Renzi scalpita. Oggi sul Corriere della Sera fa un'intervista, dice: Bersani si è fatto umiliare da quelli del Movimento 5 Stelle. Stiamo perdendo tempo. O si fa l'accordo con Berlusconi o bisogna andare a votare subito. Eccoci qui allora, buongiorno, buongiorno, siamo qui con 24 mattino, la nostra Miriam Lucchetti in redazione, il nostro Carmelo Lauricella in regia, ci accompagneranno fino alle 9 anche con voi, se volete per i vostri messaggi 349-238-6666, ben svegliati con il nostro Parlamento che può aprire sulle serrande. Convochiamo Nicole Minetti, immediatamente. Forza, forza, offre gente a tutti, a come sempre, tutti al Parlamento. Santa Claus, li paghiamo noi e con quello che tanto paga Nicole. Tanto da tornare storto come il dottor Auro. E va bene, eccoci qua. Voglio salutare Maurizio Tortorella, il vice direttore di Panorama. Buongiorno, eccoci Maurizio. Buongiorno, ben svegliato. E saluto anche Mario Adinolfi, ben svegliato anche a te Mario, eccoci. Buongiorno. Allora, voi siete della generazione che è da due giorni che l'abbiamo rispolverata, questa la ricorderete, eh? Questa musichetta subito vi fa. Dai Maurizio, cos'è? Te lo ricordi Nick Carter, Super Gulp? Tu Mario te lo ricordi, lo vedevi? Mi ricordo Super Gulp. E dai che c'era, due giorni l'abbiamo tirata fuori da ieri, c'era Ten, ve lo ricordate Ten, l'assistente di Nick Carter, quello che chiudeva sempre così. Sì, saggio, tutto è bene ciò che finisce bene e l'ultimo chiuda la porta. Dice il saggio, l'abbiamo sapere i saggi ovviamente, vabbè. Vabbè. Allora, altro che saggi. Qua c'è Renzi che scalpita. Mario, tu che eri renziano, poi montiano. Adesso a casa. No, devi tornare con Renzi, perché qua. No, io Renzi sono poi andato con Ichino nell'esperienza di Monti per le stesse ragioni per cui ho fatto la battaglia con Renzi nel partito. Insomma, Il PD così com'è, cioè il PD a trazione in Bersani, non funziona, questo è un dato chiaro. Mi era chiaro mentre facevamo le primarie, mi è ancora più chiaro dopo il risultato elettorale disastroso. L'intervista di oggi a quella sera è ovviamente un punto di svolta, questa è una cosa di cui si terrà conto, perché Renzi dice una cosa precisa: o si fa il governissimo con Berlusconi o si vota. Terzo non dato, per cui il dato mi sembra ormai chiaro, anche perché Renzi dispone di una cinquantina di parlamentari che sono decisivi per tutte le manovre che vuoi inventarti, dal Quirinale in giù. Quindi, insomma. Infatti ieri alcuni senatori hanno presentato un bel disegno di legge per abolire totalmente il finanziamento ai partiti. Scalpita. Maurizio si dirà che adesso si tornerà a dire è più berlusconiano di Renzi, c'è Berlusconi, perché dice la stessa cosa di Berlusconi. Però voglio dire, obiettivamente ha ragione, che si stia perdendo tempo direi che lo dicono un po' tutti, anche al bar lamento, è un dato inequivocabile, è ovvio che tutto adesso si è spostato, l'attenzione si è spostata sulla nomina del Presidente della Repubblica che, come si sa, partirà nelle elezioni di Camere e Senato congiunte dal 18. Dal 18, sì. Però è evidente che il busillis del governo su questi due corni gira, o da una parte o dall'altra, ragione Renzi, non c'è dubbio. Ha ragione Renzi, vogliamo sentirlo. Ieri ero in un'occasione pubblica, ma poi insomma l'intervista di oggi del Corriere è più esaustiva, è più esplicativa. Si può cambiare la legge elettorale, si può eliminare le province. Cosa stiamo facendo? Pensiamo a cosa è successo nel mondo dal 25 febbraio a oggi. In Vaticano c'era ancora Ratzinger, in un mese è stata scritta una pagina di storia, il pianeta corre e l'Italia è totalmente ferma. Così Renzi sul Corriere, ma sentiamolo ieri. Noi oggi viviamo un momento nel quale ricordiamo i 120 anni e viviamo una situazione politica e istituzionale in cui stiamo perdendo tempo. È un paradosso ricordare 120 anni, cioè vivere un'occasione di riflessione sul tempo e non rendersi conto che oggi il mondo ci chiede di correre a una velocità doppia. Vabbè, diranno il solito Pierino, no? Il solito Pierino. Subito hanno detto al PD c'è la Costituzione che detta i tempi. Oggi Stefano Fassina subito su Repubblica risponde: sta insultando anche Napolitano Renzi. Adinolfi, è partita la disfida! La disfida all'interno del PD. Sembra essere tornati a tre bello, mesi fa. Meno male, a quattro, a quattro buona, mesi fa, cinque mesi fa, non lo so. Meno male, quello è il punto. Insomma, è inutile. Fassina che impersonifica, diciamo, tutto il PD a mio avviso perdente, quello che non ha futuro, un po' il vecchio Labour, ve lo ricordate il vecchio Labour che non vinceva mai l'elezione, ma neanche a pagarle, perdeva tutte, sì, sì. La Thatcher li umiliava e poi arrivò una nuova generazione e cominciò a cambiare la storia. Vabbè, è così, ma tu Maurizio hai capito che stanno facendo i saggi? Che non si potrebbero chiamare saggi, ma consulenti, ma saggi. Sì, appunto i saggi. Saggi. Faranno l'ennesima proposta, l'ennesima disamina di tutti i problemi in campo istituzionale da una parte e in campo economico dall'altra, per quello che si è letto diranno cose probabilmente in gran parte risapute. Non parleranno sicuramente di legge elettorale, questo è uno dei limiti che si sono posti, anche perché ovviamente lì andrebbero a incagliarsi inevitabilmente. Sì, io ieri quando l'ho letto ho detto, ma come, è l'unica cosa che serve? L'unica cosa che serve non ne parleranno. Ma che servono allora? Ma sai, di commissioni, dalla bicamerale alla commissione Bozzi, ce ne sono state tante in questo paese. Se non vuoi fare una cosa, fai una commissione. Certo. È una battuta... Vecchia ma efficace. Tra l'altro oggi vince assolutamente il giornale, perché mentre il paese è fermo e tutto e tutti corrono e tutti si muovono, ma sta storia, vogliamo spendere una parola su questa storia del decreto della pubblica amministrazione? Perché cioè, il giornale oggi vince col titolo, il titolo è questo: pagate cialtroni. No, perché qui si sta a discutere di un decreto legge per bloccare dei soldi che in alcuni casi da anni lo Stato dovrebbe dare in automatico, cioè uno lavora, fa una fattura e dovrebbe ricevere dei soldi. Questo in un sistema normale. Qui, Mario, stiamo a discutere di un decreto, si fa, non si fa, c'è la copertura, non c'è la copertura. Oh, ma quelli sono soldi che lo Stato deve dare! Non è che stiamo... Qua ci vorrebbe una metafora bersaniana, fammela tu, non è che stiamo... Non dobbiamo smacchiare i giaguari. Non dobbiamo smacchiare i giaguari con lo spray. Non lo so. Un metaforone, quello. Sì. No, non lo so, ma che è sta presa? Il buon senso molto spesso purtroppo confligge con le procedure, che è una cosa incredibile, ovviamente. Quando entri dentro la matassa politica la vedi proprio da vicino, capisci che c'è questo stridore tra le cose che uno considera ragionevoli e quello che poi materialmente puoi fare per vincoli, procedure, vincoli europei, cose che ovviamente poi il decreto va ovviamente messo in operatività ed è una cosa necessaria, ovviamente. Infatti è la cosa più importante di cui si sta discutendo da sei mesi a questa ma parte. Ma ho capito, discutono, no, ma di che messo in operatività? Ma che devono discutere? Adesso Maurizio oggi qualche giornale dice c'è tra Grilli e Passera delle diverse sensibilità sulla cosa, traducendo se stanno a scannare, se stanno a scorticare, ecco come direbbe Adinolfi. Noi al tema abbiamo dedicato una copertina in edicola da oggi che ha un bel volto di Monti con lo sguardo allucinato, il titolo è usato insicuro, fregatura sicura. Quindi la posizione di Panorama sul tema è abbastanza evidente. Sì, ma la posizione è un po' di tutti, cioè ma qui stiamo parlando di un decreto, già infatti lo sentiremo anche in segreteria, uno ci ha chiamato e dice ma bisogna fare un decreto, ma voglio dire, ma qui cioè, si tratta di soldi che uno deve avere e si sta discutendo se fare e come fare un decreto per sbloccare questi soldi. Cioè è un paese bizzarro o no? O... Beh, assolutamente bizzarro, ma è anche un governo che ha dimostrato per l'ennesima volta di non riuscire a, a cavare il ragno da un buco, una cosa sorprendente per dei tecnici, ma che evidentemente non conoscono come funzionano le leve del potere, ed è un bel disastro, obiettivamente. No, sei un bel disastro. Oh, allora è il momento del Movimento 5 Stelle, così ci becchiamo un pochino di insulti. Tanto Maurizio Tortorella è uno dei più grandi amici, estimatori e sostenitori anche del movimento di Beppe Grillo. Questo sì. Mentre Mario Dinolfi lo è veramente, lo guarda con... Allora, Crimi. Crimi, vogliamo parlare di questo soggetto su cui Panorama fa una anche un due o tre pagine oggi. Il Corriere oggi fa il gaffer Crimi. Mario Dinolfi, tu non l'hai conosciuto Vito Crimi, questo portavoce che pare che appena apra bocca faccia una gaffa. A meno questo... Ma che conta Crimi? No, non lo so. Se parliamo di Movimento 5 Stelle, secondo voi conta Crimi? Significa qualcosa quello che pensa Crimi? Ah no, per carità. Mentre facevano ieri una riunione su come comportarsi coi saggi, Beppe Grillo ha fatto il posto, nessuno parla coi saggi. È. La gente ha votato Crimi? No. Secondo voi, no, quando uno ha messo la croce su 5 Stelle, ha mai pensato a Crimi? Allora, no. La legittimità, diciamo, di Crimi deriva solo dal meccanismo che è la legge elettorale Porcellum, per cui finisci dentro una lista e per caso si ritrovi in Parlamento, ma il voto è andato a Grillo e ho capito. Che lo sta gestendo, mi sembra, in maniera... E allora con chi trattiamo? Con chi trattano in Parlamento? Con Grillo, se con vogliono Grillo, trattare, ma poi, poiché chi ha votato 5 Stelle ha votato il tutti a casa, perché quello era il motivo per cui è stato votato il 5 Stelle, nessun altro motivo c'è stato, non è che l'hanno votato per il programma economico, per Crimi, per la Lombardi, solo perché un comico è salito su un palco da un paio d'anni dicendo tutti a casa, tutti a casa, tutti a casa, e su quello ha preso una valanga di voti e li sta gestendo politicamente lui, come penso sia pure legittimo che fare, insomma. Sì, ma io è una macchietta, si guarda, ma non è nulla. No, io è quello che ho sempre detto, Maurizio, cioè che in realtà Kim Jong-il, come lo chiamo io, che tra l'altro di sti tempi bisogna stare attenti con la Corea del Nord, che ha dichiarato guerra nucleare agli Stati Uniti, così. Sì, io non potrei vivere, non potrei svegliarmi e concepire un mondo senza questo paese, luogo ameno come Pyongyang. Comunque, Maurizio, cioè, fa bene così, perché io l'ho sempre detto, fa bene così Grillo, o li controlla così o niente, però dice a Dinolfi, ma chi se ne frega di Crimi, che conta? Beh, si stanno dimostrando di una pochezza impressionante, devo dire, perché non riescono a tirare fuori un'idea, ma neanche collettivamente. Devo dire che l'intervista di ieri di Grillo, quello se avete votato 5 Stelle per fare il governo con i vecchi partiti avete sbagliato, meglio che la prossima volta votate per un partito, secondo me ha detto la verità una volta, ma certo. Ma non mi stupirei se la prossima volta Grillo in questo dico una cosa che va in contrasto con tutto quello che sento dire in giro, non mi stupirei che prendesse meno voti di quelli che ha preso alle elezioni del 24-25 febbraio, perché proprio è la dimostrazione plastica dell'inutilità di sì, un però voto. Almeno in questa è coerente, voglio dire, cioè, cosa assolutamente deve, ha sempre detto così, cioè adesso si stupiscono se non fa l'alleanza col Partito Democratico, questo è verissimo, che deve fare inoppugnabile. 24 mattino. Buongiorno signor Milan, ma tutta questa gente che parla ora, questi leader politici di responsabilità, di interesse nazionale, dove cazzo erano gli ultimi 20 anni questi qui? Mi sono rotto i maroni, mi sono rotto i maroni, mi sono rotto i maroni, bisogna andare a Roma, buttarli tutti giù. Diamoci da fare, muoviamoci! Deve esserci un decreto legge per pagare dei debiti a dei lavoratori che hanno svolto un'attività professionale nei confronti del pubblico. Quando il privato deve dare del denaro al pubblico, vengono con la corazzata Potionchi a distinguere la tua vita pignorandoti tutto. Caro Alessandro Milan, sono Enzo da Latina. Non mi sento mai parlare di agricoltura, che è la fonte della vita, perché si produce tutto per mangiare. Io sono un agricoltore e ci stanno ammazzando tutti i giorni, tutti i giorni. Noi lavoriamo 365 giorni l'anno per da mangiare tutti questi forconi. Sei delinquenti, hanno rotto i coglioni tutti. Prima i tecnici, po' di saggi, un po' di orgoglio napoletano, però non metterai gli apostoli, siamo alla frutta, anzi, al torsolo. Qui è una crisi che la sbat con i baston, us lamenta padron come garzon, a cred proprio con son selva neanche un, biribim bim bim, biribim bim bom. Qui è una crisi che la sbat con i baston, sguardi in terra, top in ticalzon, ormai un rido, un canta più nisson, biribim bim bim, biribim bim bom. Porca vacassa mond ladron, ouvre proprio un bel nivon, par ralanteste mond ladron, ralantama burdel, ralantama, al vecchi tradizion, arturnama. Vabbè, ma insomma il nostro Jean Martin è straordinario secondo me. Siamo con Mario Adinolfi e con Maurizio Tortorella. Guardate che hanno trovato... Ah, ecco, no, visto che ci parlava sempre di agricoltura il nostro amico di Latina, rimettiamolo, l'invito del nostro grande, grande agricoltore. La zappa ci vuole, la zappa da 7 kg, a zappalucampo dalla mattina alla sera e a pranzo... una cipolla e un pezzo di pane duro, e a cena una minestra scunnita. Era da un po' che non la tiravamo fuori. Allora, Mario Adinolfi e Maurizio Tortorella, quiz, momento del quiz. Pare abbiano trovato un'altra persona che potrebbe avere mentito su un dottorato preso. E qui dovete andare a sparare molto in alto, ma molto molto in alto, Mario Adinolfi, chi potrebbe essere? Dottorato? Sì, su un dottorato non fatto, non completato, però la biografia ufficiale dice che l'ha fatto, ma forse no, non... in Germania, ma molto, Monti, ma no, più in alto, ma molto, più in alto, più... Merkel. Maurizio, Merkel. Ma no, di più, Papa Francesco, il vaticanista Sandro Magister, dell'Espresso, scrive che Papa Francesco, e oggi Libero lo riprende, il mistero del dottorato ancora da terminare. Non avrebbe terminato un dottorato in teologia su Romano Guardini, nonostante la biografia vaticana scriva questa frase ambigua. Nell'86 va in Germania per ultimare la tesi dottorale. Maurizio, come la mettiamo se fosse una piccola, piccola bugia del Papa? Cosa potrebbe... fa frate Giannino o si dimette? No, si dimette. Il Papa che si dimette sul dottorato, no. Di nuovo, questo Papa Mario Adinolfi potrebbe fare tutto. Ormai, diciamo, come dire, l'hai risolta la questione, insomma. Non è che si deve candidare a Papa, ormai è Papa. Sì, esatto. No, però visto che... fa una bolla papale per cancellare la riga. Non lo so, però si dimette. Non gliete pure Papa Francesco. No, lo so. Dove ci giriamo l'occhio? Poi, no, lo so, però voglio dire, averlo letto, vabbè, adesso in realtà ha fatto tutte le lauree, eccetera. Ma questa tesi dottorale non si capisce con questa frase ambigua se è andato in Germania, l'ha ultimata oppure no. Insomma, comunque il mistero del dottorato ancora da terminare. A me è venuto in mente, vabbè, no. Cos'è? No, guardi, no, sì. No, non si può mia parcheggiare in il camposanto, no, non si vuole. Sbiriguda, supercazzola prematurata. No, dico prematurata la supercazzola. Non capisco. Con scappellamento a destra. Ah, le appelle, le sono là, guardi, a destra, là. Ma no, qui no. Non si può parcheggiare. No, volevo dire, occhiello di privilegio come se fosse Antani per lei. Ispettore tombale. Ispettore, ma che dice? Ispettore. È un po' questa qui quella che ha fatto lo Stato col decreto legge, no? Ci è venuto in mente, no, Maurizio, questa la famosa supercazzola. Cioè, amici miei. Beh, certo, più o meno così. Vabbè, è il momento del Toto Quirinale. Entra anche Barbara Spinelli. Signore e signore, avanti tutti. Mario Adinolfi, allora, questo Quirinale, chi ci mettiamo? Te l'abbiamo chiesto. Adesso Barbara Spinelli, l'ossessione per le donne ormai no, è nel senso, quasi divertente. È tra le ipotesi. Gino Strada, Barbara Spinelli. Con tutto il rispetto, Barbara Spinelli, Presidente della Repubblica, così insomma... E vabbè, insomma, allora, di la tua soluzione, perché... Allora, mia soluzione, se proprio continua questo gioco delle donne, ho detto la cancelliera o la Severino della la Guardia Sicilia. E la Bonino no, come avrei detto subito. No, la Bonino no, io sono contrario proprio alla Bonino. No, e perché? Che t'ha fatto? Nel coro unanime tutti dicono la Bonino, secondo me

in un incontro in streaming col Movimento 5 Stelle. E l'unica soluzione, dice Renzi, è fare l'accordo col Popolo della Libertà e dunque considerare che Berlusconi ha preso diversi milioni di voti, oppure votare subito. Ma questo stallo, questa storia dei saggi, questa storia di perdere tempo per Renzi è il modo peggiore per anche alimentare l'antipolitica. Dal PD subito fanno sapere la grossa coalizione, come in Germania, qui non si può fare. Perché? Per un semplice motivo: Silvio Berlusconi. E allora, escludendo l'ipotesi di voto, io credo che se chiedessimo agli italiani, ma lo chiediamo, è 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, se dovessi chiedere agli italiani: vogliamo rivotare? Forse ci arriva un grigliano gigantesco, vaffa, di quelli, però insomma lo sottoponiamo a voi come domanda. E quindi che rimane? L'accordo con Berlusconi? Si può fare? Ne parliamo con l'onorevole Beatrice Lorenzin del Popolo della Libertà. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Così come saluto l'onorevole Ivan Scalfarotto del Partito Democratico. Buongiorno e benvenuto anche a lei. Buongiorno a voi. Allora, Scalfarotto, parto da lei perché lei poi è renziano. Che succede? Sta scalpitando il sindaco? Che non lo tiene più nessuno? Ma no, mi sembra che stia scalpitando l'Italia più che altro, nel senso che Renzi si è limitato a dire una cosa che è sotto gli occhi di tutti. Poi succede spesso che quando uno fa esattamente questa cosa, quando si dice che il re è nudo, si causa scalpore. Renzi ha detto che in un momento di grave crisi, nella quale le imprese chiudono, aumenta il tasso di povertà nel paese, la crisi si avvita su se stessa, quello che gli italiani vedono è una situazione di stallo. Credo che oggi siano 38 giorni dal voto e non soltanto non abbiamo un governo, ma non abbiamo neanche una vaga idea di dove andare. Ma perché le elezioni sono andate così, cioè in una situazione di tre partiti, esatto, tre grandi forze che esatto, più o esatto, meno si equivalgono. Sì, è vero, è che non è una situazione bella, però non è che si può, o non è neanche una situazione chiara, però non è che si può, come dire, dato che è andata così non sappiamo che pesci prendere. Renzi dice sostanzialmente, allora qui il discorso è che dato che il Senato in questo modo si è creato con tre minoranze sostanzialmente, sì, che non compatibili tra di loro, o decidiamo che un paio sono compatibili, e non per fare un accordo di legislatura, un grande accordo politico, no? Che lo dice lui, Renzi lo dice nell'intervista, ma magari per fare tre o quattro misure economiche importanti, rifare la legge elettorale, perché evidentemente tornare a votare è evidente che tornare con questa legge elettorale non avrebbe nessun senso, e poi magari si torna anche a votare, magari in ottobre, chi lo sa. Questo si può fare. Cioè state cercando di far capire che non è l'inciucione, che è la cosa forse peggiore che passerebbe anche al vostro elettorato, ma una sorta di accordo di scopo, cioè con uno scopo ben preciso, fare queste cose. Oggi Veltroni rilascia un'altra intervista molto bella sulla Stampa, nella quale parla di un governo del presidente, un governo di scopo, una cosa. Guardi, noi l'altro ieri abbiamo approvato una risoluzione alla Camera all'unanimità. Quindi il paradosso è stato che noi, in un Parlamento che è il Parlamento più diviso e balcanizzato dalla creazione della Repubblica, dalla nascita della Repubblica, abbiamo avuto un voto, per restare in metafora geografica, un voto bulgaro. Siamo stati tutti d'accordo su una misura economica come quella del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, che vuol dire che su alcune misure, magari anche costruendo sul lavoro dei famosi saggi, e mi riferisco alla legge elettorale, si può trovare un accordo che fa partire il governo, fa partire il Parlamento e poi magari si rivolta. Allora facciamo così, perché poi lo voglio chiedere all'onorevole Lorenzin, che sarà immagino più a favore di questo accordo, visto che il Popolo della Libertà lo dice da più tempo. A lei comunque, Iva Scalfarotto, non farebbe scalpore questo tipo di accordo con di accordo con Berlusconi? Renzi, sempre per citare l'intervista di oggi, dice: io un governo con Gasparri capisco che non sia la cosa più semplice, io penso che la differenza di valori che c'è tra il PD e il PDL è molto netta, e penso anche che i nostri elettori hanno bocciato la strana coalizione che ha governato l'Italia per 13 mesi, per cui un accordo politico è chiaro che non si può fare. Io lo capisco Bersani in questo senso e francamente lo condivido, però penso che al di là, piuttosto che un accordo politico e piuttosto che tornare a votare tra 15 giorni, si possa almeno far ripartire il paese con 3 o 4 provvedimenti condivisi, che magari chissà condivide anche 5 Stelle, visto che hanno votato la risoluzione l'altro ieri, e poi rifatta la legge elettorale si va a votare, magari appunto, ripeto, anche solo tra pochi mesi. Beh, molto chiaro. Allora, onorevole Lorenzin, lei come saluta, diciamo, l'apertura di Matteo Renzi? A parte che ovviamente nell'intervista si dice subito, ecco, le solite cose, il Renzi berlusconiano, lui replica, ma come, l'ho visto 4 volte in vita mia e basta, insomma, questa storia. Però è un'apertura non indifferente, o accordo o subito al voto. Voi... Il tema non è l'apertura di Matteo Renzi, il tema è la reazione del Partito Democratico all'apertura di Matteo Renzi, perché in una condizione di un paese normale, e intendo un paese della democrazia occidentale, in una condizione come quella in cui si trova adesso l'Italia, cioè con un'evidente spaccatura in 3 blocchi, o si va ad un governo di grande coalizione, quindi a un governo politico tra 2 dei 3 blocchi, se 3 non è possibile, oppure si ritorna alle urne, rispettando quello che è un procedimento democratico. Il PD però purtroppo si è incartato in una posizione che non è politica ma è ideologica o post-ideologica, se la vogliamo vedere con la lente di ingrandimento attuale, preferendo una corsia come quella verso un corteggiamento senza speranza con i grillini che hanno continuato a sbattergli la porta in faccia, piuttosto che cercare un accordo politico e quindi legittimamente democratico con l'avversario di sempre, cioè il partito che io rappresento. Sì. Il tema è che se una persona come Emilia Vacca, no, che ci propone una convenzione sulla democrazia e sulle riforme, è lo stesso che poi dice sì, l'arresto, io voto l'arresto. L'arresto per Berlusconi, qui c'è una contraddizione interna fortissima, che è una contraddizione che purtroppo affonda le radici negli ultimi 20 anni in una visione dell'avversario politico come nemico. Però onorevole Lorenzin, mi scusi, io ribalto il tavolo come faccio con tutti gli ospiti del Popolo della Libertà, faccio questa domanda: fosse successo l'incontrario, cioè aveste vinto voi sebbene di poco in questa situazione, cioè mettetevi nei panni di Bersani, secondo lei Berlusconi avrebbe accettato, per il carattere anche che ha, di dire caro Bersani vieni qui che dobbiamo metterci a un tavolo perché da solo non ho la maggioranza per governare? Sì, perché Berlusconi ha una cosa che manca a Bersani, non lo dico in termini elettoralistici, cioè a leadership, e in una fase come questa in cui il paese è dentro un ingorgo istituzionale, cioè con la scadenza del Presidente della Repubblica e dei tempi che sono dei tempi che di fatto rendono difficile o complicato un voto, un ritorno al voto, e soprattutto una crisi economica che morde, e vediamo lo stallo di questo governo provvisorio tecnico nella vicenda anche incredibile dei pagamenti della pubblica amministrazione, che in una fase di emergenza come questa rischia di dare veramente la botta finale al sistema delle imprese italiane. Ebbene, in una fase del genere, secondo me, deve prevalere la responsabilità verso l'Italia. Quindi l'avrebbe fatto, secondo lei? Berlusconi l'avrebbe fatto questo gesto. Avrebbe avuto un timore di perdere la propria leadership o di perdere una visione politica, tant'è vero che noi non abbiamo mai negato a Bersani la premiership, tant'è vero che gli diciamo quello che è un dato oggettivo, e cioè che il PD è arrivato primo ma non ha vinto le elezioni, e con questo dato, che è un dato oggettivo, deve fare i conti. Sì. Purtroppo ci si è avvitati in una vicenda che è più psicologica che politica, e forse sarebbe il caso che la politica, quella con la P maiuscola, ritornasse a essere protagonista della trattativa. Sì, e qua si è avvitati, ci sono i saggi, io non ho ancora... Lei Scalfarotto l'ha capito, i saggi, in tutto questo che serve? Perché qualcuno qua ce l'ha detto, insomma, dai, l'ha vista anche lei, Crozza che in maniera molto irriverente, ma si sa, Crozza può fare tutto, dice, facendo Napolitano, come dire, ho fatto questo perché non sapevo che fare, ecco, mettiamola così. Ma io in modo più, come dire, un po' più soft direi che servono a far decantare la situazione, però guardi, se riuscissero a tirare fuori un'idea condivisa sulla legge elettorale, soprattutto i quattro saggi politici... Ma se hanno detto che è l'ultimo, che non manco, quello non se ne può parlare, è l'ultimo, guardi, punto invece, in secondo lista, me, perché... proprio perché i saggi politici, c'è Quagliariello, c'è Violante, sono anche degli esperti di materia elettorale, io penso che se in questi 7 giorni in cui lavoreranno tirassero fuori un'idea sulla legge elettorale, quella potrebbe essere una buona cosa. Però io voglio chiarire, secondo me qui non si sta parlando di un accordo politico di legislatura, come dice la mia amica Beatrice, perché è evidente che noi abbiamo fatto una campagna elettorale su posizioni molto differenti, abbiamo lavorato su ipotesi, su visioni del paese, anche su valori che sono diversi. Cioè, io lo dico con franchezza, non avrei una grande, come dire, facilità a fare un accordo politico di legislatura quando, per esempio, non potremmo mai fare una legge sul conflitto di interessi, non potremmo fare una legge come la vorremmo noi sulla corruzione. Io, anche nelle modalità, io penso a una repubblica nel quale gli ordini e i poteri dello Stato sono rigorosamente indipendenti. La manifestazione sulle scale del Tribunale di Milano io non riesco a dimenticarla. E quindi l'accordo di legislatura mi pare francamente fuori discussione. Ma quello questi 6 mesi sì, quella necessità. Lei dice, ma questi 5 anni così non è facile. No, è chiaro, cioè, quindi lei dice, capisce in questo quando Bersani dice la grossa coalizione come in Germania, 5 anni con Berlusconi non si può fare, ecco questo. No, anche perché anche sul piano internazionale non sarebbe credibile, cioè la grossa coalizione si fa quando c'è una condivisione su almeno alcuni, come dire, principi molto forti, che secondo me in questo caso non c'è. Però questo, quello che si può fare lo stesso, guardi, io non penso anche che potrebbero partecipare tranquillamente anche i deputati di 5 Stelle, cioè non ne faccio una, non c'è una chiusura, ma se ci sono 4 punti, se fosse una sorta di governo di, come dire, di salvezza nazionale, sì, appunto, si può fare. Prima Lorenzin ricordava quello che sta succedendo sui pagamenti, però lì sui pagamenti noi tutti, compreso Grillo, che aveva addirittura fatto, i grillini avevano fatto una relazione di minoranza, quindi, e poi però hanno ritirato la votazione al Senato. A proposito di Grillo, mi faccia chiedere questo di Grillo, glielo chiedo perché poi vado un attimo in pubblicità e rientriamo. Lei è d'accordo che, come dice Renzi, Bersani in qualche modo è stato umiliato da questa diretta in streaming dal Movimento 5 Stelle? Ma guarda, io che sono uno che, diciamo, un grande tifoso della rete, l'ho definito una forma di nudismo politico, nel senso che secondo me la trasparenza è evidentemente importantissima, la comunicazione è importantissima, però ci sono delle situazioni, le trattative non possono mai essere fatte in diretta streaming, ma neanche una trattativa per comprare un appartamento, nel senso che quando ci si deve fare reciproche concessioni la diretta rende tutto molto complicato. Allora, la cosa che mi faceva pensare è che se si voleva trovare un accordo con Grillo e quindi farsi reciproche concessioni con un movimento come 5 Stelle, farlo in diretta televisiva è evidentemente impossibile. Sì, sì. Anche perché poi se uno deve fare delle trattative politiche, finisce la diretta televisiva, metti giù, ci si chiama al telefono. Cioè, voglio dire, mi è sembrato... Sì, ma poi peraltro gli stessi grillini, quando si riuniscono tra di loro, non ci pensano lontanamente a farci vedere quello che succede. Si parla di riunioni nelle quali succedono delle cose, no, chissà, no, per carità, non succedono cose terribili, però se le dicono di santa ragione. Allora facciamo così, andiamo un attimo in pubblicità, poi ripartiamo dall'onorevole Beatrice Lorenzin, siamo con lei, con Ivan Scalfarotto. Non trascureremo anche un tema che Scalfarotto ha voluto portare alla ribalta alla Camera da quando è onorevole, l'onorevole, perché mi interesserà il parere anche su questo dell'onorevole Lorenzini, cioè l'onorevole Scalfarotto ha detto: io voglio la copertura, l'estensione della copertura sanitaria per il mio compagno, perché viviamo more uxorio, come succede per tutte le coppie di fatto eterosessuali, anche per me, per la mia coppia e per il mio compagno omosessuale voglio l'estensione della copertura sanitaria della Camera. È interessante anche questo punto, lo affronteremo tra poco. 24 mattino. Eccoci, allora le 8:34 minuti, 800 24 00 24. Cari ascoltatori, ve lo chiedo proprio direttamente: che ne pensate di quello che dice Renzi? Si sta perdendo tempo e dice ora l'accordo col PDL, un accordo, come ci ha detto Ivan Scalfarotto, qui nostro ospite, di scopo, di breve termine, non un accordo per 5 anni di legislatura, ma un accordo per fare due o tre cose, tra cui la legge elettorale e poi magari andare a votare. È fantapolitica oppure quello che per molti potrebbe essere, onorevole Lorenzin, l'amaro calice da bere? Perché le chiedo, com'è possibile secondo lei, per molti, anche elettori del Partito Democratico, non è il suo partito certo, ma digerire un accordo col Berlusconi del conflitto di interessi, per alcuni addirittura ineleggibile, il Berlusconi dei processi, come si fa? Ma questo è un problema, guardi, cioè, non è che a me piace l'idea, non so, di un governo dove in tema di lavoro mi devo trovare seduta insieme a Stefano Fassina, con il quale non condivido quasi praticamente nulla dal punto di vista culturale, nella visione economica. E qui è una questione di realpolitik. Allora, non è che Bersani è riuscito a trovare un'altra strada. Il Movimento 5 Stelle gli ha detto di no, quindi bisogna andare a votare. Allora, si può andare a votare subito? Benissimo, noi abbiamo detto allora andiamo a votare immediatamente, acceleriamo le procedure e riportiamo l'Italia alle urne. Pensi gli italiani come sarebbero contenti? Nessuno qua poi in realtà vuole andarci perché dice che questo potrebbe essere un disastro. Pensi gli italiani soprattutto come sarebbero contenti di dire allora, oh, andiamo a rivotare. Il tema di Bersani è un tema in realtà di soltanto di un egoismo personale, di perdita del consenso interno. Poi, e qui bisogna anche parlarci chiaro, io credo che se si va ad un governo, definiamolo tra virgolette, di scopo, penso che sia difficile che un governo di scopo possa arrivare fino a ottobre. A quel punto le elezioni sarebbero tra un anno, anche perché avresti da votare la finanziaria, per fare la legge elettorale ci vogliono almeno 3 o 4 mesi, in più ci sono cioè da andare a ritrattare il patto di stabilità e il fiscal compact in Europa, cioè ci sono degli appuntamenti estremamente Cioè lei rilancia, dice lei ci vorrebbe un accordo invece per 5 anni, quell'accordo. No, 5 anni no. Beh, 5 anni anche secondo me sono difficili. Un accordo politico da poter immaginare, però più. Ma un anno se si va a un governo politico, perché di questo si tratta, di un governo politico, è evidente che secondo me alla fine ci vorrebbe un anno. Oppure andiamo a votare immediatamente, che significa ridare la palla ai cittadini. Ma con questa legge elettorale, dopo le valutazioni che hanno potuto vedere in questi mesi, e cioè sia l'incapacità del PD di avere una vera leadership, sia l'atteggiamento del Movimento 5 Stelle, che è un atteggiamento soltanto portato allo sfascio, qui mi sembra evidente che per noi, tra l'altro, andare a votare adesso, siamo l'unico partito che ne avrebbe oggettivamente un vantaggio. Eppure, nonostante siamo l'unico partito che ne avrebbe un vantaggio, siamo quelli che abbiamo avuto fin dal primo momento un atteggiamento estremamente costruttivo, perché voglio ricordarlo che Berlusconi, sin dal giorno dopo le elezioni, visto il risultato, ha detto va bene, facciamo quello che si fa in tutto il mondo, cioè facciamo un governo di coalizione e con quelle cose che vanno fatte e poi andiamo a votare. Ma scusi, con questa, lei dice una delle prospettive è andare a votare subito, ma con questa legge, cioè lei lo percepisce anche lei girando per le strade, non so quello che pensano gli italiani, si dovesse andare a votare con la stessa legge elettorale e si riproponesse la stessa situazione, cioè, ma la gente va in piazza con i bastoni. In una situazione stranissima, no? In cui tutti vogliono l'optimum, ma questo optimum non si riesce a raggiungere, perché poi bisogna fare i conti col dato della realtà, non con un dato dell'immaginazione o del desiderata. I desiderata sarebbero, penso per gli italiani, aver votato e che il partito che hanno votato, che vince o meno le elezioni, governa. I desiderata sarebbero che se non è così fai un governo di coalizione oppure fai una nuova legge elettorale e vai a votare, ma per fare queste cose ci vuole sempre un governo. Se non si trova d'accordo per fare un governo, perché tutti rimangono, il primo partito, cioè quello che deve trattare, non vuole trattare, non è che si va molto lontano. Mi sembra che ci si sta avvitando invece che su quello che è il compito della politica, e cioè guidare i processi. Questo è il compito. Guidare il paese, guidare i processi economici, assumersi delle responsabilità. Oggi mi sembra che il gioco sia piuttosto quello di vedere, di non perdere consensi nel giro di un paio di mesi, e questo è un atteggiamento secondo me irresponsabile, oltre che poco politico. L'irresponsabilità del Partito Democratico, insomma, lei ripassa la palla dall'altra parte. No, la palla ce l'hanno loro, perché noi abbiamo fatto tutto. Però se uno non ha i numeri, se uno non ha i numeri certi per governare, insomma, in qualche modo non è che si può inventare una maggioranza. Senta Scalfarotto, si parla sui giornali di una possibile fronda all'interno del Movimento 5 Stelle, con 30 persone pronte in qualche modo. Potrebbe nascere così? Era questo il motivo per cui Bersani, secondo alcuni, voleva andare comunque in aula per sfidare e vedere se i numeri per la fiducia c'erano poi in realtà? Sì, mi faccio dire soltanto una cosa brevissima, perché vedo che Lorenzini insiste sulla leadership che loro hanno e noi non abbiamo. Adesso bisogna dire che Bersani si è sottoposto a un voto popolare e che io, che ho sostenuto Renzi, ho perso e loro hanno vinto. Noi abbiamo portato 3 milioni di persone a votare e quella è leadership, sono cose che facciamo soltanto noi. Il partito di Berlusconi ha tentato di fare le primarie e non c'è nemmeno riuscito, per cui prima di dare lezioni di leadership, come dire, ci penserei un attimo. E poi va anche detto che il PDL ha questi miti consigli, ha questo profilo da statisti, secondo me non è che sono arrivati gratuitamente, perché improvvisamente hanno avuto una folgorazione, diciamo. Allora, perché hanno perso di poco, cioè il modo per... No, c'è la presidenza della Repubblica in ballo, la verità è che Berlusconi è molto preoccupato che per 7 anni ci sia un presidente della Repubblica, diciamo, molto caratterizzato, perché... Sì. Dopo la presidenza napoletana sappiamo che il Presidente della Repubblica non è quella figura, come dire, solo rappresentativa che ci insegnavano un tempo sui manuali di costituzionale, ma è una persona che ha evidentemente dei poteri importanti. È chiaro che in questa fase delicata costruire ponti serve in quell'occasione. Sa chi vorrebbe Berlusconi secondo Repubblica? L'ha già letta oggi. D'Alema, ma io ieri... Io l'ho detto da un mese facendo la battuta, mettiamo Berlusconi vuole uno dei suoi, trovato, mettiamo D'Alema, ma l'ho detta come battuta un mese fa, ma la mia era una battuta e invece me la ritrovo oggi su Repubblica. Lorenzini, le andrebbe bene D'Alema il Quirinale? Beh, non mi sembra proprio, voglio dire, il candidato che risponde al nostro profilo. Ma che ne so, io l'ho detto come battuta un mese fa, però pare che Berlusconi abbia detto questo ai suoi, mettiamo D'Alema, cioè proponiamo D'Alema. Noi abbiamo detto... Sì, un attimo, guardi, Scalfarotto. Questo è un ragionamento di buon senso. Il Presidente della Repubblica dura 7 anni. E sarà soprattutto in questo settennato il presidente che dovrà guidare una fase di transizione, di trasformazione del paese molto importante. Noi diciamo che vogliamo un presidente della Repubblica condiviso, che sia il presidente di tutti, anche del centrodestra. Credo che sia una grande occasione di ricucitura da tempo, del paese. Da tempo lo dice Berlusconi. Però un attimo, Scalfarotto, che si prenda 4 cariche su 4 sembra veramente eccessivo, il 29%. Scalfarotto, che aveva su D'Alema? Che aveva su D'Alema da dire? No, diciamo che, voglio dire, anche noi renziani, insomma, su D'Alema abbiamo avuto una posizione piuttosto netta, però insomma è stato un ex presidente del Consiglio, per carità, io diciamo non ne faccio una questione politica, però effettivamente il Presidente della Repubblica dovrebbe essere una persona, io condivido, che rappresenti l'unità del Paese, anche se è vero che la carica spesso cambia, no? Perché quando Napolitano fu eletto il centrodestra non era per niente contento, e poi adesso negli anni si è scoperto che... probabilmente anche la carica che fa il presidente, quindi. Però ieri sentivo Mara Carfagna proporre Emma Bonino. Ecco, io per esempio penso che una donna così rispettata all'estero, ex commissario europeo, ex ministro, ma no, non ce la farà mai, non è abbastanza cattolica, con un profilo internazionale così non è abbastanza cattolica, Scalfarotto, lo sa anche lei, non riuscirà mai Emma Bonino, questa è la mia previsione, che quindi conta meno di zero. Vorrei sentire Francesco dalla provincia di Padova, che ci ha chiamato all'800 24 00 24. Francesco, buongiorno. Sì, Francesco. Pronto? Dica. Buongiorno, signor Miglia, buongiorno. Beh, sento tanto parlare di questo Berlusconi che vuole il presidente della Repubblica, no? Però non sento mai nominare che una volta avuto il Presidente della Repubblica posso nominare senatore a vita lo stesso Berlusconi a vita, cioè senatore a vita lo stesso Berlusconi. Cioè, come tu, a parte che lei ha la radio accesa, c'è un eco fastidioso, ma al di là, Berlusconi non è che vuole il Presidente della Repubblica, vuole che il Presidente della Repubblica sia espressione di un dialogo tra i partiti e non vuole, come ci ha detto l'onorevole Lorenzin, che lo prenda la sinistra, ecco, diciamolo brutalmente. Ma il motivo è abbastanza semplice, lui vuole essere nominato senatore a vita. Ah, a questo punto poi, altro che legittimo impedimento, vuol dire essere assolto per tutta la vita, questo è lo scopo principale. Insomma, per lei lo scopo principale è di porsi al riparo con un Presidente della Repubblica che sia di sua espressione, per porsi al riparo anche dai processi a vita. Va bene, grazie Francesco. Alfredo da Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io mi rivolgo fondamentalmente, principalmente a tutti, come dire, gli elettori, anche da questo piccolo pulpito. Nel senso che io c'è una cosa che non sopporto, proprio in questo momento, proprio sommamente, il fatto che molto spesso la gente si fa sentire nelle varie occasioni che gli vengono date e dice non si mettono d'accordo, sono lì che pasticciano, sono lì che perdono tempo. Gli elettori sono esattamente divisi come lo sono i partiti che rappresentano noi elettori. Perché non si chiede, perché invece non sfruttiamo tutte le nostre energie, qui un po' mi rifaccio anche all'apologo di Bisio, no? C'è tutta una serie, cercare di capire cosa diavolo vuole l'elettorato del PD, cosa vuole quello grillino. Ma scusa, ognuno ha votato quello che voleva. Esattamente, voglio dire, quello che c'è adesso è il risultato del nostro voto, non del voto ma dei nostri. Ma no, Alfredo, è il risultato di una legge elettorale che fa schifo, mi scusi Alfredo, è il risultato di una legge elettorale che alla Camera dà la maggioranza chi ha un voto a livello nazionale e al Senato c'è un altro strumento, cioè si vota a livello regionale, per cui uno, e invece ci dovrebbe essere una legge elettorale che, a mio parere, se uno prende mezzo voto più degli altri, per 5 anni governa. Lei invece dice è colpa degli elettori. Che dovevano fare, Alfredo? Si dovevano chiamare, mettere d'accordo, votiamo tutti uno, votiamo tutti l'altro. Dopo, siamo nella fase successiva al voto, adesso io vorrei che ci fossero strumenti, e ci sono, per cercare di capire cosa diavolo voglia fare l'elettorato di ogni singolo partito. L'elettorato. Cerchiamo di essere noi, elemento che propone, come dire, non che semplicemente lì sbraita e dice... No, ho capito, ma propone, ma uno nel momento in cui dà il voto, basta, dà il voto e legge vero, i propri... La democrazia è partecipativa, deve ma essere mi scusi, partecipativa. È partecipativa nel momento in cui io do il voto e quindi eleggo al Parlamento una persona del partito al quale ho dato il voto. Se poi questa legge elettorale non permette a chi ha un voto di più, o 10 voti di più, o 100 voti di più, di votare perché hanno fatto uno schifo e non l'hanno voluta cambiare, non è che la colpa è di quelli che si dovevano chiamare e dire votiamo tutti questi o votiamo tutti gli altri. Comunque questo è il suo parere. Andiamo a sentire il traffico, poi voglio chiedere della questione che Ivan Scalfarotto ha posto alla Camera sulla copertura sanitaria per il suo compagno. Allora, 8 e 48 minuti, la politica la teniamo sempre sullo sfondo, ma voglio aprire questa parentesi non meno significativa con Ivan Scalfarotto. Allora, alla Camera succede che c'è la copertura sanitaria per i deputati, che è estendibile anche per le mogli, oppure anche per le coppie di fatto, no? Le coppie di fatto eterosessuali, Scalfarotto, è così? No, il regolamento dice per il convivente more uxorio. Ah, per il convivente. Viene dato per scontato che sia dell'altro sesso. Allora, il tema è questo. Storicamente, la Camera molto stranamente, che non ha mai fatto una legge per riconoscere le coppie di fatto fuori, per sé invece le riconosce, per cui non è sposato ha diritto a questa polizza sanitaria, che è una polizza sanitaria obbligatoria e a pagamento, quindi va pagata. Ed per il compagno o la compagna, basta che sia dell'altro sesso, questo almeno la prassi finora. Lei l'ha chiesta per, essendo more uxorio e non essendo specificato, lei l'ha chiesta per il suo compagno. Esatto, visto che ho letto il regolamento, dice more uxorio, poiché il mio convivente è more uxorio, io ho detto la voglio anch'io. In realtà proprio per sollevare il caso, certo, ma chiaramente. E allora c'è stato il panico e poi mi hanno detto che dovevo fare una richiesta all'ufficio di presidenza, già cosa che a me non è piaciuta, perché io non chiedevo qualcosa di più, io chiedevo di applicare quello che c'è scritto. Invece loro hanno letto delle parole, appunto, del sesso opposto. Io ho chiesto loro, ma se, quindi per caso per, voi leggete anche, non so, di razza bianca? Perché a quel punto lì, se uno aggiunge delle parole che non ci sono, può aggiungere quello che vuole. Ma c'erano scritte queste parole? Cioè del, no, del sesso opposto? No, non ci sono scritte. Però, io, però loro, hanno, loro avranno detto, è sempre stato così, cioè che no, il convivente è del sesso opposto. A parte Anna Paola Concia aveva fatto una richiesta di questo tipo nella sì, scorsa la Concia, legislatura. Paola Concia aveva chiesto questa cosa e non le hanno mai risposto, intanto che non si sono sciolte le camere, cioè l'hanno tirata talmente per le lunghe. È chiaro che lì, il momento in cui il Parlamento, che non fa la legge sulla coppia di fatto, però riconosce le sue coppie di fatto, dovesse anche riconoscere la mia coppia, la coppia gay, è chiaro che il punto che si porrebbe è di dire al Parlamento, signor Parlamento, ci scusi, perché questa legge non la fa? E io li voglio portare proprio lì. Lei li cioè vuole stanare, li vuole stanare, diciamo la verità. Sì. Onorevole Lorenzin, dipendesse da lei, perché lo so, può sembrare una cosa magari di piccolo cabotaggio rispetto alle cose che succedono in politica in questo momento più importante. Scalfarotto dice, l'ho voluto tirare fuori come, come caso, ma dipendesse da lei, è un problema che Ivan Scalfarotto si è inventato oppure, oppure che c'è? Che facciamo? No, che adesso stavo ascoltando Scalfarotto, c'è una cosa che mi desta perplessità, nel senso che in questo caso, guardi, io sono, la mia posizione sul, sui matrimoni omosessuali è nota, quindi invece in questo caso io penso che abbia ragione lui. Nel senso che, però, dico dal punto di vista privatistico proprio, si tratta di un'assicurazione, questa è un'assicurazione privata a pagamento e quindi come accade anche per le assicurazioni, per esempio, di altre società, di società private, di dipendenti di alcune società, ognuno nell'assicurazione sanitaria può indicare una persona. Io, non, per esempio, non sono sposata, ho indicato mia madre, che è un familiare di primo grado, e ci sono delle assicurazioni di società o anche in alcuni casi per quanto riguarda alcuni ordini professionali per cui possono indicare una cioè persona. Mi faccia capire, mi scusi, sua madre gode la copertura sanitaria della camera perché lei la segnala... No, io pago l'assicurazione, sì, l'assicurazione. Nell'assicurazione a pagamento sì. Tu puoi mettere una persona e della messo tua sua famiglia madre. No? O metti il coniuge e figlio oppure puoi mettere un genitore. Ma, tra l'altro, aperta parentesi, questa cosa sembra, le sembra normale? Cioè nel senso che certo è a pagamento, è un'assicurazione, ma che la camera di fatto copra quindi l'assicurazione sanitaria no, l'assicurazione la copriamo noi con i nostri contributi. Tutta voi? Quindi, beh, in gran parte la copriamo noi con contributi del nostro stipendio, quindi fa parte dell'assicurazione, appunto, un'assicurazione come avviene all'interno, diciamo, di molte compagnie, di grandi società, di aziende, ed è tra l'altro obbligatoria, come diceva appunto Scalfarotto. Sì. Vorrei sapere la parte che pagate voi e quella che invece rimane a carico, guardi, a carico nostro. Mi sembra, se non sbaglio, di pagare 500 euro al mese. Rispetto... E le dico, io prima avevo un'assicurazione privata, prima di fare il deputato, che pagavo ovviamente con il mio stipendio, che era di 2500 euro l'anno. Okay. Quindi per dirle il rapporto, tant'è vero che rimasi molto stupita di una cifra così, così alta su un'assicurazione che di fatto copriva... quasi esattamente le altre le cose che avevo anche nell'altra assicurazione che privatisticamente mi ero fatta come una gran parte degli italiani. Comunque lei dice l'onorevole Scalfarotto in questo caso ha ragione, perché se si può indicare un familiare o comunque una persona no, che non una è persona, cioè, il marito o la moglie tipo, non essendo una questione di tipo non pubblicistica ma privatistica, certo. Io credo che sia un percorso che infatti no, ma ha capito Scalfarotto, cioè Beatrice Lorenzin ha indicato un'altra donna che poi è sua madre, quindi lei cioè, Scalfarotto, lei è fregata, non doveva dire, doveva dire che era un suo amico, il suo compagno, doveva dire no, che, no, che guarda, era suo nipote. Caro, non è da farci dell'ironia, io sto no, dicendo no, no, ma diversa. nel senso sto dicendo che il dal punto di vista su queste questioni, quello che mi ha sempre diviso da, diciamo, ci sono dei punti che mi dividono fortemente dalla posizione di Scalfarotto, perché io, a differenza sua, sono contraria al matrimonio omosessuale. In questo caso no, al matrimonio e a quello che comporta, cioè quindi la reversibilità del sistema pensionistico e altre questioni. Però gli strumenti di tipo di diritto privato sono di altro tipo, perché non questo debbano è essere utilizzati per coprire e garantire alcuni diritti. È chiarissimo, e questo è un'assicurazione, e quindi che riguarda uno strumento privatistico e non pubblicistico, non vedo, e quindi non dovrebbe entrare in quei casi. Onorevole Scalfarotto, sì, io l'ho messa in ironia, nel senso, dovendo dire, però l'onorevole Lorenzin ha segnalato nell'assicurazione una persona del suo stesso sesso, sua mamma, e quindi onorevole Scalfarotto, no, guardi, allora, diciamo che io e il mio compagno non abbiamo un rapporto come quello di Lorenzin e sua mamma, cioè questo vorrei chiarire, noi siamo una famiglia, io e il mio compagno anche noi abbiamo un progetto di vita insieme, siamo quello che sono una coppia sposata, e in ogni paese al confine con l'Italia noi saremmo una coppia sposata. Noi non lo siamo perché viviamo in questo paese e siamo un'eccezione nel panorama mondiale, diciamo, dei paesi con i quali noi amiamo confrontarci, leader come Obama, Hollande, insomma, o anche la Merkel e Cameron, anche quindi leader di destra, sono su queste posizioni. Noi siamo il fanalino di coda dei diritti civili d'Europa. Ora è chiaro che nel momento in cui, ripeto, la Camera dei Deputati, quando qualsiasi datore di lavoro, ha ragione Lorenzin, io vengo dal settore delle risorse umane, mi sono sempre occupato di questo, nelle aziende private, essendo un'assicurazione privata, tu paghi anche una somma notevole, come diceva Lorenzin, euro al mese. Due assicurati. Ma la pruderie, voglio dire, la super prudenza, in un certo qual senso il non voler combinare, quando io ho sollevato il caso si è seminato il panico negli uffici della Camera, e anche adesso l'ufficio di presidenza si è già riunito e non mi hanno deciso. Detto sì, i tempi sono quelli, purtroppo i tempi sono anche questi miei, molto stretti, mi devo fermare, ma rimarremo aggiornati su questa cosa. Grazie Ivan Scalfarotto e Beatrice Lorenzin. Io mi fermo, e ve l'ho detto, vado in vacanza, ritorno il 15 di aprile, ma ci sarà da domani Gianfranco Fabi dalle 6:30 puntuale, e ci risentiamo presto. Dice il saggio, tutto è bene ciò che finisce bene, e l'ultimo, chiuda la porta. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta.